Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati a Dietro la Notizia. Oggi sulle prime pagine le misure che il governo si appresta a varare per contrastare la crisi economica. Nel piano del governo, mutui, bonus per i figli, blocco delle tariffe e tante misure che dovrebbero aiutare a ritrovare la fiducia verso il futuro, la fiducia verso appunto le prospettive e le possibilità di uscita da queste difficoltà finanziarie. Qualche segnale positivo viene dai mercati. La giornata di ieri è stata ampiamente positiva sul fronte europeo e anche sul fronte asiatico. Abbiamo sentito prima, la borsa di Tokyo ha chiuso con un forte rialzo questa notte, questa giornata per loro si svolge in anticipo, e quindi qualche segnale positivo viene anche dalla fiducia americana verso i cambiamenti che il nuovo presidente Barack Obama potrà portare. In Italia le cose sono forse un po' più complesse, ci sono anche vecchi problemi che si sommano a quelli attuali, e tra i vecchi problemi ci sono quelli delle tutele, verso l'occupazione e soprattutto la disoccupazione. Ne parliamo con Michele Tiraboschi. Buongiorno Tiraboschi. Buongiorno. Tiraboschi è docente di diritto del lavoro dell'Università di Modena e direttore del centro studi intitolato a Marco Biagi, con cui Tiraboschi ha collaborato a lungo. Oggi sul Sole 24 Ore scrive un articolo richiamato anche in prima pagina, le nuove tutele, enti bilaterali e flessibilità. Ecco, proprio su questo fronte si può dire che per ora la manovra del governo non prevede particolari iniziative per tutelare i lavoratori che verosimilmente potranno perdere il loro posto, e si parla soprattutto dei lavoratori con i contratti a tempo determinato, che sono forse i più sensibili alla crisi e quelli di cui le aziende possono tentare di rinunciare proprio nei prossimi mesi di fronte alle maggiori difficoltà. Allora, Tiraboschi, siamo di fronte ancora a una carenza, un po' di interventi su questo fronte? Ma su questo fronte il nostro paese sconta dei ritardi impressionanti rispetto al resto d'Europa. Noi abbiamo introdotto delle leggi importantissime sulla flessibilità, poco capite ma decisive per modernizzare il nostro mercato del lavoro, la legge Biagi, prima il pacchetto Treu. È chiaro, e tutti l'hanno detto, che queste leggi però impongono anche una revisione delle tutele sul mercato del lavoro, che significa rendere il mercato del lavoro più efficiente, dinamico, puntare sulla formazione, su moderni servizi per l'impiego e soprattutto su un sistema nuovo, efficiente, generalizzato di tutela del reddito in caso di mancanza di lavoro. Avere fatto le riforme sulla flessibilità senza averle completate con la riforma sugli ammortizzatori è una grave lacuna, e oggi non ne paghiamo le conseguenze. Ciò detto, io credo che le misure che sono state annunciate in realtà facciano un primo passo in avanti nella direzione del cambiamento, perché si parla di dare indennità disoccupazione anche a apprendisti e lavoratori interinali e in parte anche collaboratori coordinati continuativi, quindi c'è un tentativo di estendere alcune tutele che normalmente sono invece riconosciute al lavoratore maschio adulto con contratto stabile a tempo indeterminato, penalizzando invece donne e giovani. Ecco, ricordo gli ascoltatori, l'800 24 00 24 per le vostre telefonate, per parlare con Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro all'Università di Modena. Su questi temi, allora, Tiraboschi, un passo si sta facendo, ma è un passo per ora che sarà limitato ad intervenire in questa situazione di crisi, di difficoltà, come un intervento tampone, un intervento di emergenza, o si prospetta un intervento più strutturale, sotto forma proprio di una revisione, quella revisione di cui parlava all'inizio, degli ammortizzatori sociali in senso un po' complessivo? Sono ormai maturi, anzi i tempi forse erano maturi da tempo, adesso le esigenze sono diverse, forse la riforma sarebbe stata più facile farla nei tempi in cui la crescita era più sostenuta, le risorse potevano essere più ampie, adesso le risorse sono forse scarse, ma l'esigenza di una riforma globale è ancora più sensibile. Ma sicuramente noi è da 10 anni che parliamo di riformare il sistema degli ammortizzatori, delle tutele del reddito delle persone che perdono un'occupazione o che transitano da un'occupazione all'altra. Abbiamo fatto dei tentativi dopo il pacchetto Treu, dopo la legge Biagi, tutti feriti già allora per la mancanza di risorse. Figuriamoci adesso che le risorse sono ancora più scarse e la crisi è ancora più drammatica e più importante. Io però ritengo che si possa fare un ragionamento, diciamo così, di prospettiva. Immaginare di mettere in campo oggi una riforma strutturale degli ammortizzatori, che sarebbe sicuramente l'idea migliore, è un'utopia. Basti pensare che per un provvedimento legislativo di questo tipo, che prevede anche le competenze delle regioni e poi delle parti sociali, passerebbero almeno 6-8 mesi di dibattito parlamentare e poi occorrerebbe mettere a regime il nuovo sistema attraverso dei meccanismi molto complicati, mentre la crisi è già iniziata, è oggi, e quindi occorre subito intervenire con delle risposte immediate e tempestive che vadano a sostenere le situazioni maggiormente critiche. Un tentativo, ripeto, può essere quello di andare a distribuire le risorse, le poche risorse pubbliche, sulle figure atipiche o flessibili migliori, quelle di maggiore qualità su cui occorre investire. Io penso all'apprendistato, perché è un contratto a tempo indeterminato con contenuto formativo che oggi inspiegabilmente non ha alcuna copertura in caso di sospensione o di licenziamento dal punto di vista degli ammortizzatori. Altro strumento importantissimo da rilanciare sono le agenzie del lavoro e i contratti di lavoro interinale. Sono forme di lavoro importanti perché dietro al lavoratore temporaneo c'è comunque un'agenzia specializzata nella collocazione sul mercato del lavoro delle persone, molto meglio che un contratto a termine bilaterale, terminato il quale il lavoratore rimane senza accompagnamento, senza tutela. Quindi questa è una prima direzione, canalizzare le poche risorse verso forme di lavoro flessibile di qualità. L'altra potrebbe essere quella invece di andare a recuperare delle risorse private che in realtà esistono ma non sono sufficienti. Tutti i settori che oggi non hanno la cassa integrazione, l'artigianato, il terziario, e come fu un tempo per l'edilizia, hanno infatti sviluppato delle forme mutualistiche attraverso enti bilaterali che danno una parte di integrazione al reddito, che però è ancora poca cosa. Se le poche risorse pubbliche vengono sommate in una logica di cofinanziamento con le risorse private, si potrebbe dare un sostegno al reddito di pari dignità a questi lavoratori di questi settori meno protetti rispetto ai settori invece maggiormente tutelati. Ecco, rispetto agli altri paesi europei che si trovano di fronte a difficoltà economiche simili a quelle italiane, la strumentazione italiana di difesa del lavoro, ma soprattutto del reddito, è molto inferiore. Abbiamo qualcosa da imparare dalle esperienze dei paesi vicini? Dalle esperienze dei paesi vicini abbiamo molto da imparare. In primo luogo, questi paesi sono attrezzati nel monitorare, studiare attentamente il mercato del lavoro. Noi siamo molto attrezzati a litigare, a sviluppare polemiche provinciali, ideologiche. Gli altri paesi invece sono molto più attenti e seri nel monitorare il mercato del lavoro. In questi giorni noi stiamo parlando in piena libertà di cifre su cos'è il lavoro atipico, il lavoro parasubordinato, quanti saranno i lavoratori licenziati in cassa integrazione, ma non c'è alcun dato ufficiale, autorevole e condiviso dalle parti sociali. È evidente che studiare delle misure di intervento in queste situazioni di crisi senza conoscere la realtà, senza avere dei monitoraggi attendibili veri, è come navigare a vista. Gli altri paesi invece sono molto più attrezzati da questo punto di vista e quindi hanno delle iniziative, delle misure molto più calibrate, perché si basano su dati oggettivi e non su polemiche pregiudiziali. La seconda cosa invece che gli altri paesi possono insegnarci è che è tramontato ormai il modello di welfare incentrato sul lavoratore maschio adulto per una carriera. Gli altri sistemi sono molto più attenti a garantire tutele a tutti i lavoratori, specialmente alle fasce deboli. Questo spiega perché il nostro paese è ancora molto indietro rispetto ai tassi di occupazione regolare di giovani, donne, lavoratori over 50, perché proprio non è cambiato il sistema di protezione nelle transizioni fra un'occupazione e l'altra. Noi dobbiamo attrezzarci, come hanno fatto gli altri paesi, a dare tutele non più solo nel contratto di lavoro per chi ha già un'occupazione, che sono tutele importanti, ma attrezzarci anche a dare tutele sul mercato del lavoro. Gli altri paesi hanno servizi per l'impiego pubblici efficienti che aiutano a trovare un'occupazione in tempi rapidi, hanno dei sistemi di formazione di qualità dove le persone che entrano hanno una possibilità di incrementare le capacità professionali, quindi l'appetibilità per le aziende, quindi poter essere facilmente ricollocati, e poi hanno dei sistemi di ammortizzatori che sono generalizzati e meno iniqui del nostro. Questo è lo scenario europeo, ripeto, occorre andare in quella direzione, non si può procedere nella strada della flessibilità che è decisiva e fondamentale senza fare anche questi cambiamenti di tutele sul mercato del lavoro. però la crisi, ripeto, è oggi, è già iniziata e quindi al momento noi possiamo semplicemente cercare di colmare le principali lacune e prospettare attraverso degli interventi tampone quelle che poi sono le premesse per mettere in giro un sistema strutturale. Se noi in particolare riusciamo a rendere efficiente la tutela degli enti bilaterali e quindi recuperare risorse private, questo potrebbe essere un canale per mettere a regime la riforma degli ammortizzatori sociali. Sì, grazie. Ovviamente la problematica è abbastanza complessa. Quello che di cui bisogna tener conto è che in una dinamica complessiva della società è necessario adeguare e armonizzare appunto anche questo sistema di tutele, mentre l'Italia è rimasta ferma a vecchi modelli. Abbiamo un paio di ascoltatori in linea, stiamo parlando con Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro dell'Università di Modena, delle misure del governo, soprattutto nella particolare ottica delle tutele del lavoro, delle tutele dell'occupazione e del reddito. Abbiamo alcuni ascoltatori in linea. Vincenzo da Livorno, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo fare una domanda. Non riesco a capire perché non si riesce ad applicare il quoziente familiare, cioè il reddito diviso gli appartenenti alla famiglia. Mi sono informato, mi sembra che non esiste questo sistema. Come mai? Che difficoltà c'è? Io credo che sia il sistema migliore per rilanciare i consumi, perché naturalmente chi ha un reddito lo divide per il membro della famiglia diventa un problema. La ringrazio, la domanda mi sembra molto chiara, se posso consentire la risposta. Il problema è essenzialmente di gettito, perché se lei divide il reddito per due ovviamente le tasse ne paga di meno e quindi il gettito fiscale complessivo diminuisce, quindi il problema di fondo è un problema di salvaguardia del gettito fiscale. Lo Stato ha bisogno delle tasse degli italiani. Applicare una misura come questa, che condivido, sarebbe molto giusta dal profilo dell'equità familiare, sarebbe appunto però porrebbe appunto dei problemi dal punto di vista del gettito. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e al professore. Io desidero fare un'osservazione. Oggi con la crisi che c'è diventa difficile, penso, attivare degli ulteriori ammortizzatori sociali. Parlo per esperienza personale, io sono un medico con un'altra specializzazione, ma un totale precario. Ciò che non si capisce è perché nessun governo abbia mai attivato un programma dove si faccia sì dei contratti anche libero professionale, come noi siamo costretti ad avere, ad un anno, ad obiettivi, e dopo 3 anni l'azienda sia obbligata ovviamente a valutare anno per anno gli obiettivi raggiunti, ma se dopo 3 anni viene valutato adeguato il dipendente, sia obbligata ad assumerlo, e se non gli va bene non abbia la possibilità di assumere una figura assolutamente identica nei 3 anni dopo. Questo eviterebbe quello che è successo e che noi viviamo tutti i giorni, che per evitare il co-co-co, cosa abbiamo? Abbiamo contratti ad un anno e ogni anno preghiamo di averlo. Questo è un costo zero per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali e dà però la possibilità di creare dei programmi di sviluppo e di maggior stabilità anche per i giovani. Intendiamoci, noi medici chirurghi siamo spesso dei finti giovani, perché a 36 anni, 37, pur con famiglia, non abbiamo alcuna certezza. Attendo la risposta in linea, grazie. Grazie a lei. Tiraboschi. Questo è un problema delicatissimo, al di là della figura molto particolare del medico, però è vero che noi abbiamo oggi una serie di contratti che vengono reiterati nel tempo, o sono contratti annuali o sono contratti a collaborazione coordinata e continuativa, senza però avere la certezza che questo sia un percorso che ha una destinazione, che ha quindi una stabilizzazione come obiettivo. Devo dire che il precedente governo, il governo Prodi, sul punto è intervenuto modificando la disciplina in particolare dei contratti a termine, stabilendo che dopo 3 anni non è più possibile prorogarli e il rapporto diventa stabile. Questo però è una risposta, diciamo così, formale, giuridica. È chiaro che anche questi tetti, per cui dopo tot mesi o tot anni di lavoro precario c'è la stabilizzazione, si prestano a delle furbizie. L'imprenditore che non vuole assumere non rinnova il contratto in tempo utile prima che arrivi la stabilizzazione. Quello che conta invece è fare un investimento, per cui è l'imprenditore che subito ha una convenienza a stabilizzare sul piano sostanziale questi lavoratori. Imprese che vivono di rapporti temporanei precari non hanno sicuramente fatto un investimento sul futuro, perché hanno in azienda delle persone poco motivate, con la testa altrove, che cercano altre occupazioni. Quindi credo che serva un giusto mix. Da un lato sicuramente delle sanzioni e sbarramenti per chi fa un utilizzo fraudolento o comunque un po' diciamo così, regolare di questi contratti, alimentando aspettative, ansie in persone che peraltro, come diceva l'ascoltatore, spesso non sono neanche poi così giovanissime. Noi abbiamo un ingresso nel mondo del lavoro rispetto agli altri paesi molto avanzato, intorno ai 27-28 anni. Offrire un'occupazione temporanea, uno stage, un tirocinio, un contratto di collaborazione a una persona che è già nell'età adulta significa sicuramente avviare un percorso di insicurezza, instabilità, che poi incide sulle scelte di vita e le scelte familiari. Quindi da un lato un gioco di anticipo, fare entrare il prima possibile e meglio i nostri giovani nel mercato del lavoro, dall'altro però anche puntare su un sistema di convenienze reciproche. Probabilmente, questa è una provocazione che qualche intellettuale, qualche giuslavorista come Pietro Chino ha lanciato: se noi avessimo un mercato del lavoro più flessibile anche in uscita, quindi con più facilità sciogliere rapporti quando non sono più sostenibili sul piano economico, sarebbe anche molto più facile avviare delle assunzioni stabili nei primi mesi di contratto. Grazie, siamo quasi in conclusione. Alberto da Bologna, rapidamente. Sì, buongiorno professore, è stato mio professore, consulente del lavoro di Bologna, e dire qualcosa anche riguardo alla formazione, l'acqua calda, ma per esempio è molto difficile fare degli studi di amministrazione del personale quando si è pieni di laureati in scienze di formazione o altro. Ecco, mi scusi, la linea è molto disturbata, però abbiamo capito il tema sulla formazione, ma anche sulla preparazione dei giovani a scegliere le strade giuste. Michele Tiraboschi. Sì, anche questo è il problema. Noi abbiamo sviluppato negli anni passati una battaglia di retroguardia sulla flessibilità del mercato lavoro. La flessibilità è uno strumento importante e decisivo che però va accompagnato con delle tutele attive sul mercato lavoro. Dicevo prima, servizi per l'impiego, ammortizzatori e sicuramente anche la formazione. Noi abbiamo un sistema di formazione che non funziona, che non dà risposte alle imprese, non dà risposte neanche ai giovani e alle persone, cioè non è una formazione coerente con le esigenze del mondo del lavoro. Però anche qui, ancora una volta, il punto decisivo è che il precariato si combatte, l'insicurezza si combatte dando forza alle persone che lavorano, questo soprattutto attraverso dei percorsi educativi formativi di qualità. La scelta giusta della scuola giusta, dell'università giusta è decisiva. Occorre potenziare le forme di raccordo fra scuola, università e mercato del lavoro, e forse anche più che solo creare dei ponti, dei raccordi, anche contaminare i due mondi, riprogettare la nostra scuola e la nostra università in funzione di quelli che sono i nuovi mercati del lavoro, i nuovi fabbisogni professionali, non solo per subire le richieste del mercato, ma magari anche per indirizzare le richieste del mercato verso quei lavori che sono richiesti, sconsigliando invece in chiave di orientamento, accompagnamento, quelle professioni che sappiamo essere sature e non dare sbocchi occupazionali se non temporanei e precari. Grazie Michele Tiraboschi. Indubbiamente la sua età è una sua età dinamica, bisogna tener conto di questa dinamica, in parte possiamo controllarla, possiamo guidarla, anzi dobbiamo guidarla, ma dobbiamo essere anche pronti a cambiare, ad accettare il cambiamento e adeguarci al cambiamento. E questa è una formula vincente anche per riuscire a superare i momenti come gli attuali momenti di crisi. Crisi di cui si parlerà anche tra poco a viva voce. Io non ho potuto dare la linea a tutti gli ascoltatori che avevano telefonato, l'argomento è certamente molto caldo. Viva voce parlerà ancora di crisi economica, di misure del governo, soprattutto sotto la prospettiva degli interventi sul fronte del sostegno ai consumi, sugli interventi e anche sul giudizio dei sindacati a questi interventi. Io ringrazio Carmelo Lauricella in regia, ringrazio gli ascoltatori, l'appuntamento con Dietro la Notizia per domani.